Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Questo libro posso definirlo in un solo modo, un ciclone, perché è veramente un romanzo travolgente, sia per le cose che racconta, per la storia che racconta, ma anche e soprattutto per il modo in cui viene raccontata, perché ha uno stile ritmato, aspro a volte, c'è dell'ironia, del sarcasmo, a volte quasi una scrittura arrabbiata. Il libro si intitola La più amata, l'ha scritto Teresa Ciabatti, pubblicato da Mondadori. Tra l'altro questo è uno dei libri candidati al Premio Strega 2019. Teresa, questo è un libro che racconta la storia vera, ovvero simile, questo poi ce lo dirai, dei tuoi genitori, in particolar modo di tuo padre, di te bambina, poi adolescente, di tuo padre Lorenzo Ciabatti, che è stato un famoso primario chirurgo nell'ospedale di Orbetello, e tu inizi a descriverlo come un uomo che veniva di fatto osannato da tutti. Addirittura i medici e gli infermieri dell'ospedale erano un po' i suoi tuttofare, cioè gli facevano anche i servizi a casa, le faccende quasi domestiche, eccetera. Tu inizi con il dire che hai scritto questo romanzo perché volevi un po' scoprire la figura di tuo padre, il mistero anche che c'era dietro, e che questo mistero era diventata un'ossessione. Perché era diventato per te un'ossessione? Perché, allora, prima di tutto io scrivo questo romanzo, scrivere questo romanzo è stato un atto abbastanza di viltà, perché l'ho scritto quando tutti erano morti, quindi un grande atto di coraggio. Però nel momento in cui erano tutti morti, a cominciare dai miei genitori, ho iniziato a ragionare, a farmi delle domande che non mi ero mai fatta prima, e mi sono resa conto di quante cose del passato, dell'infanzia, non tornassero. E da lì, piano piano, queste domande sono diventate una vera ossessione. Mi sono isolata da tutti, cioè volevo scoprire, capire, e mi sembrava che il mio essere donna di oggi dipendesse dalle risposte su questo passato, e soprattutto su mio padre, chi era quest'uomo e anche che mi ha fatto. Perché all'inizio del libro c'è questa attribuzione totale, che è anche molto infantile, no? Di dire io sono così, sono questa donna, io sono un disastro, una donna appunto incompiuta per colpa loro, dei miei genitori. Quindi che cosa mi hanno fatto? Infatti tu a un certo punto in questo romanzo scrivi: mi chiamo Teresa Ciabatti, ho 44 anni e a 26 dalla sua morte, cioè dalla morte di tuo padre, decido di scoprire chi fosse davvero mio padre, diventa la mia ossessione. A 44 anni do la colpa a mio padre per quello che sono: anaffettiva, discontinua, egoista, diffidente, ossessionata dal passato. Litio, Effexor prima, Prozac e Rivotril poi, colpa tua, solo colpa tua, papà. Insomma, la Teresa Ciabatti che scrive questo romanzo è una Teresa Ciabatti arrabbiata, vendicativa, che vuole fare dei conti col suo passato, o cosa? Perché poi alla fine lo dedichi a tuo padre. Sì, esatto. Questo libro. No, è un percorso, all'inizio è questo. Diciamo, quello che succede nel libro succede parallelamente, anche se è di poco interesse, però nella vita, nella mia vita, e quindi a me succede di diventare adulta a 44 anni. Io lo so che è tardissimo, però questo è stato, e parto dall'idea che voglio scoprire la verità, e poi piano piano scrivendo mi libero di questa ossessione, nel senso mi rendo conto prima di tutto di averci messo tantissimo del mio, quindi quella donna egoista, incapace, cioè non è solo colpa di tuo padre, io penso che sia molto molto colpa mia e non dei miei poveri genitori. Quindi è stato un senso di liberazione questo romanzo. Sì, e anche una presa di responsabilità, insomma non è così causa ed effetto. Io credo di averci messo veramente ho capito di averci messo tantissimo del mio, e infatti nel libro io sono una bambina antipaticissima, odiosa. Sì, una bambina che vediamo passa un'infanzia molto felice, ti descrivi a 4 anni, sei la regina, sei la principessa, hai un ego anche smisurato e sei abituata ad avere tutto dalla vita, perché sai che alle spalle un padre potente, un padre di potere, un padre rispettato, quindi qualsiasi cosa tu voglia fare, tu riesci a farla. Quindi effettivamente avevi questa sensazione Di onnipotenza. Ovviamente parliamo di una dimensione piccolissima, perché Orbetello. Sì, però per un bambino è indipendente. Io mi sentivo la regina di Orbetello, per me quello era il mondo, anzi dell'Argentario, un po' più grande, estendiamo. E per cui il mio potere arrivava fino a Portercole, Porto Santo Stefano, mi sembrava veramente una cosa immensa, un re immenso. Lo misuravo continuamente questo potere, che poi era quello di mio padre, e con richieste sempre più smisurate. Infatti il libro a un certo punto diventa la domanda chi era Lorenzo Ciabatti, diventa invece chi è Teresa Ciabatti, e la risposta alla fine del romanzo è nessuno, cioè una qualunque, quando invece questa parte, questa cioè io, parte che è la reginetta, la sarà tutto nel futuro, sente che nel futuro può essere qualsiasi cosa, da politico addirittura si vede Madonna, santa. Sì, potrebbe fare di tutto, la ballerina, il presidente acque, della Repubblica, qualsiasi cosa. Fino all'immagine di camminare sulle acque, perché le sembra che non ci siano proprio ostacoli, e lei può tutto in questo mondo minuscolo, dove è al centro in effetti. Però poi quando ci portano a Roma, quando mia madre ci porta a Roma, piano piano questa bambina speciale, privilegiata, diventa niente. Ecco, nel momento in cui Teresa Ciabatti, scrittrice e donna, si rende conto alla fine di questo romanzo di non essere nulla, cioè di non essere quella principessa, di non essere quella reginetta, prova un senso di liberazione o di frustrazione? No, liberazione, cioè una come tanti, nel senso che io non fossi speciale me ne ero già accorta. quindi già appunto venendo a Roma a 15 anni mi ero accorta che c'era qualcosa che non andava. E poi anche come scrittrice, il fatto di dovermi confrontare sempre con l'insuccesso, col fallimento, da subito, non è che ho mai avuto grande successo. Tutto il romanzo è giocato su questa cosa: sono normale o sono superiore? Sono una regina o sono una ragazza normale? Tutto questo è arrivato ovviamente dal contesto in cui sei stata cresciuta. Giusto per descrivere un po' l'ambiente in cui crescevi, tu eri l'unica ragazzina che aveva la villa con piscina, l'argentario insieme alla famiglia Agnelli, e di questo te ne facevi vanto, giustamente, usata una ragazzina. Proprio anche in adolescenza, proprio per rimorchiare, la usavo. Che poi non andava benissimo, mai, però mai, però all'inizio, come primo aggancio, che io avevo la piscina e ce l'avevamo solo io e Susanna Agnelli e la famiglia Agnelli, cioè all'inizio faceva, poi dopo, quando dovevo tirare fuori qualche altra arma, insomma non c'era nient'altro. Ecco, io leggendo questo, anche questo atteggiamento di bambina, ti ho detto mi ha fatto anche tenerezza, perché capisco che c'è un dolore sotto. Qualcuno potrebbe apparire spocchia, diciamo, ma questa Teresa Ciabatti veramente chi si credeva di essere, chi si crede di essere oggi? Questa è una critica che temi da parte di alcuni lettori? No, non la temo, nel senso che poi è un po' il cuore del romanzo, no? L'identità, come dicevi tu, questo continuo barcamenarsi fra l'essere speciale e l'essere normale, l'essere nessuno. E poi da una parte, cioè fino all'età adulta, no? Continua questa, diciamo, la voglia di sì, questa battaglia fra l'essere unica, speciale, e poi i fallimenti, la realtà. Perché ci sono sempre, come ti ho detto prima, comunque io mi sono confrontata sempre più col fallimento, quasi mai col successo. Nella descrizione di tuo padre emergono degli aggettivi sicuramente non generosi: calcolatore, vendicativo, amante del potere. Lo vediamo che fa degli scherzi pessimi quando conosce tua madre all'inizio, iniziano questa relazione, dice che sua madre è morta, invece non è vero, quasi come fosse uno scherzo. A un certo punto dici è un uomo che non ha emozioni. Questa è la Teresa Ciabatti arrabbiata che ancora lo descrive così, o è quella che è riuscita a mettere una distanza? No, sicuramente quella arrabbiata. Poi c'è una parte a cui tengo molto del romanzo, che è quella di me adolescente, ragazzina, e lì c'è una sovrapposizione piena con il padre, cioè con questo padre così freddo, che ama il potere, che usa le persone. Nel libro, per esempio, la bambina, che poi corrisponde a quello che fa il padre, però la bambina ha un rapporto con gli oggetti e anche con le persone tutto a livello giocattolo, come se fossero tutti dei giocattoli, come il padre fa, però non sono giocattoli, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa, un esercizio di potere più sottile, sì, esatto. Anche perché poi alla fine del romanzo, insomma, lo diciamo perché comunque è una cosa di cui si è parlato, a un certo punto tu lo definisci, tuo padre era un fascista, un massone, sì. Fai anche riferimento all'amicizia con Licio Gelli, quindi comunque è stata una figura anche protagonista comunque della storia d'Italia, non solo della storia di Teresa Ciabatti. Questo io non l'ho saputo, era quello che cercavo, no? Quindi io alla fine mi limito a raccontare più o meno quello che ho visto come testimone e quello che sono riuscita a mettere insieme. Poi abbandono la ricerca, perché non ha tanto importanza che ruolo abbia avuto realmente tuo padre, ma anche la sua identità fino in fondo, cioè comunque conta come l'ho percepito io, come l'ho vissuto. Inoltre io credo che per descrivere quella generazione di uomini, quel tipo, anche quella provenienza così culturale, politica, fascisti, toscani, ecco, mi sembrava che fosse più interessante raccontare tutto l'aspetto familiare, l'aspetto intimo, e quindi gesti di una grandissima violenza, come per esempio quello di addormentare la moglie per un anno. Questa è una cosa che mi ha fatto, devo dire, molta impressione, perché tu parli inizialmente in modo così, fai dei piccoli riferimenti, l'anno in cui mamma dormiva, l'anno del sonno, uno capisce che è successo qualcosa, dice beh, forse avrà avuto una depressione, non sarà stata bene, invece era stata proprio sottoposta volontariamente ad una cura del sonno, in modo coatto, sì, proprio. Perché all'epoca andavano, c'era questa cosa, andava di moda, si usava la cura del sonno, però solo credo in una clinica in Italia e in Svizzera. Però tua mamma l'avevano fatto a casa. Loro lui era riuscito a ottenerlo in ospedale, immagino, e poi a casa, ma soprattutto era di breve durata, durava un mese, due mesi, a parte in casi estremi, non per una che era un po' depressa, E lui l'ha fatto durare un anno. Questo fa capire come anche tuo padre avesse una forza, una potenza, un forte ascendente su tua madre, perché inizialmente lei la vediamo medico anestesista, una donna indipendente, sì, ribelle, quasi comunista, insomma, sì, di quelle che agivano da sole, le ragazze di un tempo che negli anni 70 erano indipendenti, poi lentamente sfiorisce accanto a tuo padre. Sì. Però lei, diciamo, questo anno di sonno, questa cura del sonno non l'ha mai percepita come una violenza, cioè, ma neanche noi figli, sono stata io da adulta a ricostruire, a analizzarla in un altro modo, però è sempre stata vissuta come mamma è stata male, è stata curata per un anno, quindi lei non si è mai posta come vittima di lui. Non si è mai sentita sua vittima. In questo romanzo tu descrivi moltissimo chiaramente la figura di tuo padre, anche il suo passato in New York, poi capiamo tante cose, sì, della sua figura, e alcune non le capiamo, ma sono, diciamo, è poco interessante sapere com'è la realtà. Descrivi molto bene tua madre, si parla pochissimo del tuo fratello gemello, si capisce che tu sei nata insieme a un fratello gemello che ogni tanto appare così sullo sfondo. Perché è così semplicemente accennato? No, quella è una scelta. Beh, ovviamente. No, siccome tutti, anche l'editore, la prima cosa che tutti, le prime letture erano, sì, vabbè, ma questo fratello non sta, sì, così sullo sfondo. Perché dice gemello, ha vissuto lo stesso periodo, e le stesse cose. Invece io mi sono battuta tantissimo per mantenerlo così, proprio perché, essendo una persona vile, io non avrei mai attaccato l'unico vivo, e l'unico sopravvissuto come me, quindi... Vabbè, l'ultimo capitolo si intitola proprio esatto, Sopravvissuti. Poi in qualche modo anche perché lui, è il racconto degli effetti di una famiglia su noi figli, quindi noi figli siamo anche un tutt'uno. Avevo proprio questo senso del noi e quindi non sentivo troppo l'esigenza di differenziare. Tu ti senti ancora a questo punto un'adulta incompiuta anche dopo aver scritto questo romanzo che in parte ha sciolto dei tuoi nodi interiori? Non diciamo la verità perché non ci interessa poi quanto appunto sia vero e quanto sia verosimile. Purtroppo sì. Quello non è stato risolto. Mi sento una madre imperfetta, più che imperfetta. Una moglie... Non trovo nemmeno l'aggettivo. Non so cucinare. No, però mi attengo alla realtà, nel senso non so cucinare, non guido la macchina, non come averci un ecco, hai paura che tua figlia fra 30 anni possa scrivere un romanzo su di te? No, ma lo so, cioè sono preparata. Già sono preparata, però l'unica cosa con mia figlia che ha 7 anni io ho sbagliato tutto nell'educazione di mia figlia, tutto quello che non si doveva fare l'ho fatto, quindi la televisione in camera, regali, ricoperta di regali, tutto quello che non si deve fare, però ci siamo simpatiche, ma al di là di tutto io sento vabbè, c'è l'amore e che probabilmente si manifesta attraverso la simpatia reciproca, ci siamo molto simpatiche, quindi quando stiamo insieme ridiamo ridiamo molto. Questo non so quanto sia un rapporto madre-figlia, però è il nostro rapporto madre-figlia. Un'ultima domanda, l'ho accennato prima, quasi paradossalmente questo romanzo è dedicato a tuo padre. Abbiamo detto ne esce una figura insomma anche molto, molto negativa, poi lasciamo perdere le tue conclusioni che dici va bene, ok, alla fine non è poi tutta colpa sua se io sono così, però perché a questo punto questa dedica? Perché là dentro c'è anche tantissimo amore, cioè io l'amore della bambina verso il padre non l'ho perduto. E quindi non è un atto di distruzione, non è un libro, cioè per me c'è molto più amore strada facendo che rabbia, e quindi sì, lo dedico a lui e all'amore che ho avuto e anche il ricordo che ho di lui, però io sono diciamo impietosa con lui come lo sono con me stessa, racconto un mondo pieno di ombre dove mi metto dentro, siamo così. Grazie Teresa Ciabatti, ora in libreria con La più amata, un romanzo pubblicato da Mondadori, ve l'ho detto, un romanzo potente, un ciclone, qualcosa veramente che travolge per la trama e per la scrittura. Vi ricordo anche che questo è uno dei romanzi candidati al premio Strega. Facciamo una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. C'è un appuntamento fisso che è veramente molto molto importante non solo per gli editori ma anche per i lettori più piccoli, ed è l'appuntamento con la Fiera del Libro per bambini e ragazzi a Bologna, che quest'anno si terrà dal 3 al 6 aprile. Siamo arrivati alla 54esima edizione e possiamo dire, veramente lo diciamo con fierezza, che è uno dei fiori all'occhiello per quanto riguarda, come dire, il Made in Italy nel mondo, perché questa è veramente la fiera internazionale più importante del settore. A Bologna si possono così capire quali sono per esempio le nuove tendenze che vanno per la maggiore per quanto riguarda appunto la letteratura per bambini e per ragazzi. Ricordiamo sempre che questo è uno dei pochi settori dell'editoria italiana che porta sempre il segno più e che gli illustratori italiani sono veramente molto molto apprezzati nel mondo. Ne parliamo con Elena Pasoli, exhibition manager della Fiera del Libro appunto di Bologna per bambini e per ragazzi. Pasoli, allora, quali sono un po' le tendenze che emergeranno dalla fiera del libro per bambini e ragazzi di Bologna? Verso che cosa si sta andando? Sostanzialmente direi che possiamo identificare due macrofiloni. Da un lato il filone, diciamo, più tradizionale, quella letteratura che alimenta la parte fantastica e immaginativa dei bambini. Dall'altro lato un filone molto molto interessante dedicato all'attualità, cioè libri che spiegano ai ragazzi le situazioni attuali, che tante volte non sono affatto belle. Ovviamente tema straaffrontato a livello proprio mondiale è il tema dei migranti, tema che ha tante interpretazioni, si va dall'albo illustrato al testo, al romanzo, quindi si coinvolgono sia i ragazzi fin dalla più tenera età fino ai giovani adulti che, come si sa, sono lettori forti. Un po' di anni fa era scoppiata un po' la moda dei gialli anche per quanto riguardava i bambini e gli adolescenti. È una tendenza che resiste ancora o effettivamente è un po', come dire, è una bolla che si è esaurita? La tendenza comunque sì, adesso certamente non parliamo più della novità del tema centrale, però il libro giallo, come dire, rappresenta un'avventura, un coinvolgimento del lettore, un'inclusione del lettore nella storia che ha sempre il suo fascino, e quindi non c'è ovviamente quella profusione che si poteva vedere alcuni anni fa, ma è sempre una tematica presente. Come sempre, parlando un po' dei vari generi, insomma c'è il genere, chiamiamolo così, femminile, non mi piace il termine rosa, diciamo la letteratura e i romanzi amati soprattutto dalle ragazzine e dagli adolescenti, quindi romanzi romantici, penso a scrittrici come Anna Todd, come Jamie Maguire, ma ce ne sono veramente tante. Ecco, questo è un tipo di romanzo, appunto lo definiamo con le virgolette rosa, che sta comunque cambiando nel corso degli anni. Guardi, adesso quando lei ho sentito la parola donne, non mi si è proprio accesa una lampadina nella mente, perché proprio non posso non sottolineare che finalmente anche nel libro per ragazze si parla di, quando parliamo di donne, non dobbiamo pensare più al romanzo rosa, alla letteratura dolce nei canoni appunto del libro rosa per ragazze. Adesso ci sono delle meravigliose biografie uscite e in uscita dedicata alle grandi donne, e questo è un tema fortissimo a livello mondiale, lo vediamo nelle letterature davvero di tanti paesi. Anche il libro che è stato premiato in una delle nostre categorie, quella del libro d'arte per ragazze, affronta il tema della vita di Louise Bourgeois in una meraviglia di intrecci tra i ricordi della madre che faceva la restauratrice di arazzi e le trame stesse della sua arte. Si mescola la memoria col vissuto in una maniera eccellente, quindi direi che dal punto di vista del femminile stiamo facendo dei passi importanti. Per fortuna, mi viene da dire. A proposito invece di letteratura, diciamo di fantasia, puramente di fantasia, la fantascienza è un genere che non va forse tanto più fra i ragazzi, sicuramente invece è molto molto diffuso il fantasy. È un periodo che sembrano andare di moda, sembrano piacere i cosiddetti romanzi distopici, insomma quelli dove si immagina un futuro prossimo ma assolutamente terribile. Immagino per esempio Follen, ma anche tante altre saghe. Perché questo genere piace così tanto? Ma piace tanto perché è un'evasione, è il Blade Runner contemporaneo. È sempre stato affascinante quel tema, il tema del fantasy in prospettiva. Ti consente, come dire, di elaborare con la fantasia le situazioni più incredibili, più i percorsi proprio più illogici, che si fanno logici in questo altrove, come dire, e direi che per i ragazzi in generale è un tema che acchiappa, che include molto, un po' come anche la stessa cosa che dicevo prima del libro giallo, cioè proprio ti sembra di vivere sulla tua pelle quello che stai leggendo, e naturalmente è per i giovani adulti un po' più grandi questo è molto interessante. Grazie allora Elena Pasoli, Exhibition Manager della Fiera della Letteratura per Bambini e Ragazzi di Bologna, che vi ricordiamo si terrà ovviamente a Bologna dal 3 al 6 aprile e sarà la 54esima edizione. E prima di chiudere, una segnalazione di un evento fuori confine. Ad Ascona, in Svizzera, dal 6 al 9 aprile, la quinta edizione del Festival Letterario, che si svolge sul Monte Verità e sul Lungolago di Ascona. Tema: i luoghi dell'utopia. Fra gli ospiti vi segnalo che ci sarà Svetlana Alexievich, giornalista, scrittrice bielorussa, premio Nobel per la letteratura 2015, che parlerà di fine delle utopie, riferendosi al crollo del comunismo. Poi ci sarà il filologo classico, storico e saggista Luciano Canfora, il teologo e scrittore Vito Mancuso, il saggista argentino naturalizzato canadese Alberto Mangel. E vi segnalo anche il progetto Futuri Maestri, un'iniziativa che coinvolge i ragazzi dagli 11 ai 15 anni a Bologna. Fra aprile e maggio ci saranno degli eventi speciali con Daniel Pennac, Roberto Saviano, Michela Murgia. Gli scrittori racconteranno la propria storia e i ragazzi potranno così, diciamo, prendere spunti per diventare i futuri maestri, insomma i punti di riferimento culturale del futuro. A giugno poi ci sarà in conclusione uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da 1000 giovani attori che sono stati guidati attraverso alcuni laboratori da 9 maestri di oggi, insomma da personalità del mondo della cultura. Tutte le informazioni su teatrodellargine.com. Anche per oggi è tutto, grazie a regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.